Ci sono 70 parlamentari che hanno le scorte. Il ministro Anna Maria Cancellieri ora vuole tagliare, far pagare ai partiti. Io voglio salutare l'onorevole Maurizio Bianconi, che è anche vice vicario tesoriere del Popolo della Libertà. Buongiorno, buongiorno Buongiorno a lei. Bianconi. È un ritorno con noi. Allora, ma è vero, 70 parlamentari risulta anche a lei, più o meno sono questi i numeri. Quando ricevono delle minacce che vengono ritenute gravi, serie, gli viene messa a disposizione una scorta. Questo sì, ma sono davvero così. Cioè, sa, magari uno le minacce a un parlamentare, magari sa, ci sono tanti stupidi che fanno delle minacce che poi non seguono. Sì, io penso che ci sia su questa questione la vicenda Biagi. Sì. Fu tolta una scorta, come lei si ricorderà, e successe quello che successe, e allora tutte le volte che succedono problemi di questo tipo, anche per non correre rischi di recriminazioni postume, vengono assegnate queste scorte. Fra noi parlamentari, diciamo così, che il fatto della scorta viene un po' ridicolizzato, ecco, diciamo, Cioè, viene dipinto come uno status symbol. Poi, sì, quando c'è stata, per più o esempio, meno è come dice lei, quindi se ne toglie un po' e si assume la responsabilità, secondo me non fa male, Ecco, però chi deve pagare? Perché per ora paga il Viminale, che però ha fatto una circolare a dire alla Camera, la Camera, cioè, paghi diciamo, l'organismo di appartenenza del politico, in questo caso la Camera. La Camera dice: noi non abbiamo i soldi, paghino i partiti. no, queste sono le solite sciocchezze che vengono tirate fuori, che paghi la Camera, che paghi i partiti o che paghi il Viminale, sempre soldi pubblici sono. Quindi mi Infatti. sembra un po' una bischierata questo rimpallarsi. Io le toglierei. Lei le toglierebbe? Sì, molte sì. Appunto, lei non ce l'ha la scorta, Ma no? scherzo. No, perché, ma scherza? Nel senso, No, magari minaccia, qualche perché minaccia magari l'ha avuta anche guardi, lei, cioè io ne ho qualcuno. avute tante in vita mia di minacce e una Vede? volta me la volevano mettere, li mandai via. Voglio dire, se ne devono ammazzare uno, meglio che ne ammazzino uno solo invece che 5 o 6, sono del tutto inutili. Appunto, questo è il suo parere. Cioè, sono del tutto inutili, nel senso che, per esempio, c'è qualcuno, ma adesso magari non le voglio far fare i nomi, se vuole fare i nomi le faccia, No, ce n'è qualcuno che ne ha obiettiva necessità. Ci per sono quelli che, per esempio, esempio, io subiscono so delle io... minacce di tipo locale, in cui c'è il matto, il dichiarato, oppure si sono messi particolarmente in luce per cose impopolari, per cui una scorta può essere effettivamente Ma utile. che ne so, a me viene in mente un nome, ad esempio il senatore Ichino del Partito Democratico, è anche una No, lui, persona che questo è andata, poveretto, questo va tutelato. infatti è entrata nel mirino, c'è un No, questo processo, va le Brigate tutelato in tutti i Rosse. modi. E fa anche una vita che non gli invidio, poveretto, ecco. Poi ci sono altri casi invece in cui, come dice lei, insomma, ecco. Poi ci sono dei casi, cioè, per esempio, mi viene in mente il mio amico Decorato, che a Milano è costantemente sotto minaccia, e lui va protetto, c'è poco da fare. E invece chi le viene in mente No, qualcuno? no, no, no, No, lasci no. fare. Perché lasci Beh, fare? lasci fare perché sì, insomma. Non siamo a Pettegolandia, eh? Non siamo a Pettegolandia, però lei ne toglierebbe, quante ne toglierebbe secondo Non lei? lo so perché non sono il segretario della Camera e non ho No, certo. diciamo così, il prontuario degli scortati. No, ma diciamo una percentuale, cioè a Ma lei ha... secondo me il 90% potrebbero stare a casa. Cioè, il 90% di scorte potrebbero Sì, essere ma eliminate. vede, non si tratta di risparmiare, questo deve essere molto chiaro, perché bene o male poi questi soldi vengono dati lo stesso, anche togliendo le scorte, perché le scorte non è che viene fatto da personale nuovo, è da personale che c'è. Beh, magari Si potrebbero tratta essere di un miglior impiegate. utilizzo del E personale. certo, potrebbero essere impiegate per persone che magari lo Sì. Poi meriterebbero la deve scorta. anche capire, perché se no non si capisce in fondo i meccanismi, che il militare, l'agente, il carabiniere destinato alla scorta fa una vita migliore di quello che deve andare a fare altri lavori. Quindi c'è anche, diciamo così, una tendenza degli uffici a non declinargli gli inviti, eh? Quindi dice anche questo, c'è questa tendenza Sì, loro. Però lei ora gli interessa questo aspetto molto marginale e sì, io glielo racconto, no? sì. I problemi sono altri. Comunque. No, vabbè, ma insomma, è interessante capire che il 90%, perché sa, nell'immaginario popolare, poi abbiamo visto anche, c'è stata la polemica, per esempio, della scorta che faceva la spesa la presidente del gruppo del PD, Anna Finocchiaro, con Guardi tanto. che a lungo gioco questo succede facendo salva la Finocchiaro e altri, perché poi diventa una sorta di simbiosi di vita, quindi e questo può, sì, può anche succedere. Però a me interessa capire un atto di galanteria. A me interessa capire se i partiti, visto che lei ha anche le casse del Popolo della Libertà, sì, sono disposti. I debiti del Popolo della Libertà, i debiti. Non c'ho più le casse. Vabbè, se sono disposti a pagare per queste scorte, perché se, che si paghino. Non vedo perché un ente, un'associazione non riconosciuta debba tutelare l'incolumità dei cittadini che è costituzionalmente garantita. Ma scusi, insomma, a maggior ragione se lei dice il 90% secondo un suo parere sono inutili, che almeno le paghino chi se diventa un giochino, se lo paghi uno, no? Ma anche qui, dottore, lei che è così preciso, la scorta non è che la mattina un parlamentare salza e dice io voglio la scorta. No, certo, gli viene assegnata. E gli viene assegnata secondo un meccanismo che è tutto statale, è il prefetto e il questore che lo decidono. Quindi è una questione, diciamo così, che parte da lì. Se loro la decidono, è logico che nell'ambito non solo dei diritti costituzionali, ma della finanza pubblica se la paghino. Perché io come cittadino dico, guardi, signor prefetto, signor questore, ho subito questa minaccia. Punto. E poi decidono loro. Dicono, guardi, che secondo questa minaccia lei deve avere la scorta. Mm. E quindi se la determinano, se la deliberano, se la pagano. Quindi è una questione statale, la paghi lo Stato. Certo, anche poi non cambia niente in finanza pubblica, perché sempre soldi pubblici sono quelli del Viminale, quelli della Camera e quelli che vengono dai partiti. Senta, a proposito di debiti, visto che lei ha le casse, quanto ammontano i debiti del Popolo della Libertà? Adesso a niente, ma fra due mesi siamo senza soldi, perché hanno fatto una cosa che secondo me non ha proprio precedenti di buon senso. Cioè dimezzare il budget nell'anno in corso. Ma scusi, il dimezzamento per dare i soldi ai terremotati? Io devo dare i soldi ai terremotati e contemporaneamente devo mandare a casa la metà di quelli che ho assunto in tutta Italia. Quindi do a 110 famiglie la buona notizia che per dare i soldi ai terremotati non mi portano più lo stipendio a casa. Cioè lei sta dicendo che dovrete licenziare qualcuno? Il 50% dei nostri dipendenti. 50%? Sì. Tra quanto? Entro l'anno. Entro l'anno il 50% sì, dei dipendenti del Popolo, tanto il Popolo della Libertà si scioglie e torna a Forza Italia. No, chi questa se ne frega. È una sciocchezza, semmai cambierà nome. Beh sì, cambierà nome. Ma non so se sarà questo, basta che non cambi il progetto. Però mi scusi, lei sta mettendo quindi sul piano, perché sa, è un argomento molto sensibile quello dei soldi dei terremotati, che glieli dovevamo negare oppure non dovevamo prenderli da lì? Abbiamo dato i soldi ai terremotati e tant'è vero, li abbiamo anche votati e poi si manda a casa la gente. E che vuol fare? Quindi però si metta nelle panni di un terremotato che sente questo discorso, si deve sentire anche in colpa perché... No, chi sente il terremotato? Sente chi è che ha avuto questa brillante idea? Cioè si sfugge completamente il meccanismo che quando si va a, diciamo così, destinare risorse da destra a sinistra o da A a B, quello che stava in A e perde, quello che prende sta in B e guadagna. Certo. In questo caso i dipendenti dei partiti, chi li ha, noi il PD penso, dovranno fare queste scelte. Il principio dei vasi comunicanti, no? Si danno soldi in A e si sono sempre quelli. È sempre la novella del governo Monti, no? Si risparmia, non si risparmia nulla, i soldi sono sempre quelli. Che ne pensa? Noi tra poco parliamo di Nicole Minetti. Lei ha un pensiero compiuto su Nicole Minetti? Io ce l'ho sì il pensiero, che domani voteremo il Fiscal Compact, sì. Quindi rovineremo l'Italia per i prossimi 10 anni, nessuno fiata, la stampa se ne frega totalmente, nessuno ha capito che per i prossimi 10 anni le famiglie italiane dovranno fugarsi in tasca per 50-60 miliardi l'anno, le famiglie italiane, e tutti sono incentrati su Nicole Minetti e sul nome del PD. Nel PDL. E questo è, diciamo così, un segnale del momento. Ma lei ha un'idea? Cioè, se le interessa dire si dimetta, se non a se ne frega niente? A me non frega. Non è certo la Minetti il capro o la capretta espiatoria. Sì, qualcuno sul Libero si è azzardato anche a dire la pecorina espiatoria. Si tratta poi di buon gusto lessicale, voglio dire. Se lo era prima, e non è che si può fare le vergini stupefatte e svegliarsi dopo, insomma. E un'ultima cosa invece la stupisce questa cosa della Sicilia, che direbbe, l'abbandoniamo la Sicilia? La Sicilia, anche qui ci se ne accorge sempre la mattina dopo. Infatti, no. La mattina dopo sono tutti scandalizzati, ma nessuno si accorge che Monti ha fatto una violazione costituzionale grossa come una casa. Quella di dire dimettiti. Cioè, voglio dire, qui in nome di un... Però ha detto, non ha detto dimettiti, ha detto confermi Lombardo che ma si dimette il 31. Come dire lei? No, beh, Lombardo ha sempre detto io il 31. Fallimentare. Cioè, lui è presidente del Consiglio, anche se non l'ha eletto nessuno. Anche se è un graziato dal Signore, perché in una mattina, in una giornata si è fatto eleggere senatore a vita. Neanche Re Artù le faceva ste cose, capito? E quindi si ritiene in diritto di dire un governatore regolarmente eletto, con tutti i ribaltoni che vuole, con tutti i debiti che vuole, che sono da 30 anni, mi dica se vuole andare a casa. Cioè mi confermi se, come lei ha detto, vuole andare a casa il 31 luglio. Dottore, lei non è di primo pelo. Questa l'aveva mai sentita dire lei? No, effettivamente istituzionalmente è una cosa un po'. Siamo di fronte allo scassamento di tutte le regole della democrazia. Stiamo rischiando grosso, non per i debiti, per questo.